Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È un po' l'evento editoriale di quest'estate, si intitola Acqua in bocca ed è il giallo scritto a quattro mani da Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli, pubblicato da Minimum Fax. Nel romanzo si incontrano l'ispettrice Grazia Negro, creata dalla penna di Lucarelli, e Salvo Montalbano, il famosissimo personaggio seriale dei gialli di Camilleri. E Lucarelli ci racconta com'è nata l'idea. È nata da un'intervista fatta assieme, io e Andrea Camilleri, fatta da Minimum Fax. E mentre facevamo l'intervista abbiamo cominciato a giocare su una possibile trama con alcuni dei nostri personaggi come protagonisti. E siccome stava venendo abbastanza bene l'idea, il gioco, se facessimo così, se poi succedesse così, se poi accadesse cos'è, a quelli di Minimum Fax è venuto in mente, ma fatelo veramente, cioè fate un libro in cui questo scambio di colpi di scena, di trama, con i vostri personaggi diventa qualcosa di fisicamente leggibile. E così abbiamo cominciato. E così si sono incontrati i personaggi di Grazia Negro e Salvo Montalbano. Come hanno lavorato insieme questi due personaggi? Ci sono stati degli scontri o sono andati d'accordo? Sono andati abbastanza d'accordo, per fortuna, anche perché avevano in gioco la pelle, quindi mettersi a litigare non ci sarebbe stato tempo. No, direi molto d'accordo, perché sono due personaggi abbastanza diversi. Montalbano è molto più riflessivo e poi più intuitivo da un certo punto di vista, no? Un tipo alla Maigret, e invece Grazia Negro è molto più, come dire, più attiva, più impulsiva, anche più strana, più inquieta, e alla fine direi che si sono abbastanza bilanciati. E invece Lucarelli e Camilleri sono andati d'accordo? In genere, insomma, gli scrittori sono sempre un po' gelosi della propria specificità. Per voi com'è stato? Ma noi l'abbiamo messa in gioco proprio, il vero proprio termine, insomma, il vero senso della parola. Andrea ha ovviamente il suo modo di scrivere, il suo modo di gestire i personaggi, io e il mio, ma noi semplicemente avevamo la possibilità di scambiarci materiali stando uno da una parte e uno dall'altra, quindi i nostri personaggi si confrontavano direttamente senza scendere a compromessi l'uno con l'altro. Ecco, a proposito di come avete lavorato, il libro è un mix, diciamo, di lettere che Grazia Negro e Montalbano si scambiano, poi ci sono dei verbali, articoli di giornali e così via. Come avete lavorato tu e Camilleri? Vi scambiavate delle mail? No, ci scambiavamo delle proprio fisicamente gli oggetti, nel senso che Camilleri mi ha spedito un cannolo con dentro un pizzino, io gli ho spedito un cabaret di tortellini con sottoscritto, io Grazia Negro gli ha spedito un cabaret di tortellini con una lettera sotto, e i verbali di polizia ce li siamo scritti, ricopiati, rifatti secondo la carta intestata e spediti proprio. Poi purtroppo questa cosa non è potuta venire fuori nel libro perché chiaramente stampare un libro ha altre esigenze, e ci dispiace che non sia venuto fuori fino in fondo il gioco come noi lo avevamo concepito, però insomma alla fine lo spirito credo che si veda lo stesso. Insomma, per voi è stato veramente un gioco a questo punto? Assolutamente, assolutamente, fatto coi tempi del gioco, cioè quando ne avevamo voglia e quando ne avevamo l'idea giusta. Per noi è un gioco, spero che lo sia anche per il lettore, nel senso che non prenda questo libro come un tentativo di fare storia della letteratura, è un gioco a cinque, io, Camilleri, Grazia Negro, Salvo Montalbano e il lettore, siamo lì tutti assieme a giocare con il thriller. E questo gioco è durato 5 anni, se non erro? Sì, proprio perché ci siamo presi i tempi del gioco, quindi non è che ci sentivamo in dovere di correre, no, per chiudere un libro e poterlo consegnare. Nel frattempo ognuno di noi faceva quello che doveva fare. La formula di scambiarsi le cose, non di doversi per forza ritrovare seduti a scadenze prefissate a fare qualcosa, ha fatto in modo che ci fosse quello spirito di totale divertimento. Mi arrivavano le cose di Camilleri, poi io ci pensavo su, aspettavo, e quando c'era un'idea giusta, ecco che io mandavo le cose a lui e così via. Chi ha pensato il titolo? Chi ha pensato anche alla trama? Insomma, vi è venuta così, cammin facendo? La trama è venuta cammin facendo, anzi assolutamente. Nessuno dei due sapeva cosa sarebbe successo. Il bello era proprio quello, cominciare pensando, beh, adesso se metto questo forse scopriremo che il colpevole è quello, e invece ecco che Camilleri metteva, io metto quest'altro, il colpevole sembrerà quell'altro, e così via. E siamo andati avanti fino a tre quarti, direi scambiandoci un continuo colpo, no, di scena uno con l'altro, cambiando le cose, infilando degli indizi improvvisamente che appartenevano a qualcos'altro, eccetera. Quindi la trama si è costruita. Poi alla fine abbiamo dovuto chiudere, direi che l'idea di chiudere tutto, quella di far quadrare tutto, è venuta Andrea Camilleri, che è sicuramente più quadrato di me nello scrivere gialli di un certo tipo. Il titolo non mi ricordo, credo sia venuto in mente alla casa editrice, oppure Andrea Camilleri, io sono negato per i titoli e quindi sicuramente non è venuto in mente a me. E questo era Carlo Lucarelli, che ha firmato insieme ad Andrea Camilleri il giallo Acqua in bocca, pubblicato da Minimum Fax. Ora ancora un giallo, Il carezzevole di Massimo Lugli, pubblicato da Newton Compton. L'anno scorso, lo ricordiamo, Lugli era arrivato terzo al premio Strega con L'istinto del lupo. Questa volta l'autore, che nella vita fa il cronista di Nera, ci porta un po' nel suo mondo, tanto che uno dei protagonisti è appunto un giornalista. Ma partiamo dal titolo, Il carezzevole, un titolo un po' inquietante. Il carezzevole, tra l'altro, è una figura realmente esistita nella storia, come ci spiega Massimo Lugli. È esistita nella storia perché era il carnefice imperiale dell'antica Cina. Era un personaggio oscuro, tenebroso, pieno di segreti, a cui venivano affidati i condannati per un supplizio che poteva durare giorni, fin tanto che lui riusciva a tenere in vita la vittima. E quando un condannato veniva affidato alle sue cure, chiamiamole così, soltanto l'imperatore in persona poteva interrompere il trattamento. Lui pescava da un vaso in cui erano mischiati tutti i fogliettini con i nomi dei vari organi e su quegli organi infliggeva il dolore. E le famiglie, si dice, pagassero delle cifre enormi perché lui pescasse casualmente l'unico cartellino rosso con il cuore, che avrebbe garantito una morte misericordiosa e immediata. E perché il protagonista, diciamo il cattivo di questo libro, viene definito il carezzevole? Perché si appropria di questa identità, lui si vede come tale, è uno che ha mal digerito tutta una serie di filosofie orientali, soprattutto taoiste, ha letto il Tao Te Ching, Lao Tzu, ha letto i classici del taoismo e quindi ne fa un gran budino di cui si serve per alimentare queste tue teorie farniticanti che poi sciorina all'altro protagonista che è Marco Corvino, il cronista di Nera che diventa il suo interlocutore. E allora parliamo di questo interlocutore, chi è? Ma è un giovane cronista di Nera che inizia negli anni 70, a 20 anni, me stesso praticamente, inizia in un giornale che non viene mai nominato, ma in cui è facile vedere Paese Sera, anche la città non viene mai nominata, e comincia a fare la cronaca nera, un impatto terribile, viene da una buona famiglia, quindi si trova in mezzo a stupri, violenze, rapine, quello che succedeva a Roma negli anni 70, e comincia a ricevere queste telefonate notturne di questo personaggio, non crede che esista, pensa che sia uno dei tanti squinternati che chiamavano allora e chiamano ancora oggi le redazioni dei giornali, però poco a poco viene sedotto da questi discorsi, cede alla seduzione del male e avrà la necessità di scoprire se è tutto vero, cioè la sua non è una ricerca dell'assassino ma è una ricerca della verità, deve scoprire se quello che sente è reale, perché comincia a dubitare che possa essere reale. Conversazione dopo conversazione, dialogo dopo dialogo notturno, lui si sente sempre più coinvolto, cambia umore, diventa aggressivo, diventa violento, è intollerante, sul lavoro comincia a sbagliare e si fa uno scopo di andare a vedere ma questo che sto sentendo potrebbe avere una sua realtà e scoprirà che è così. Perché il lettore lo sa fin dall'inizio, fin dalla prima pagina sa che è vero. Quindi subisce anche un po' la fascinazione di questo personaggio che, lo ricordiamo, ha anche tutto un rituale prima di uccidere le sue vittime. Sì, un rituale terribile, di orrore, perché innanzitutto li priva del genere, del sesso e poi li fa passare per questi tormenti che si riportano ai cinque elementi della cosmogonia cinese che sono acqua, terra, legno, fuoco, metallo. Ogni elemento interagisce con l'altro, può distruggerlo, può crearlo, può conservarlo. Pensiamo, non so, al metallo che taglia il legno che alimenta il fuoco, all'acqua che spegne il fuoco, eccetera. E quindi lui teorizza su questo passaggio e cerca l'allievo ideale che è quello che supererà tutti e cinque elementi e diventerà una specie di complice, una specie di schiavo, ma non lo troverà. Già si accennava prima a elementi autobiografici. Tu sei un cronista di Nera, hai iniziato proprio come cronista di Nera. Questo ti ha aiutato nella trama del romanzo? C'è qualche spunto che hai preso dalla realtà? Sì, quasi tutto quello che accade a Marco Corvino è realtà. Sono episodi che io ho cambiato, eccetera, ma sono episodi che io ho visto, a cui ho assistito di persona, ma anche le piccole crudeltà redazionali, questo apprendistato durissimo da parte di autisti e fotografi che lo sottopongono a vessazioni e umiliazioni, è tutta la mia storia. E invece dall'altra parte è tutto inventato, quindi ho voluto anch'io, essendo io praticante di arti marziali da tanti anni studente di taoismo, non studioso, studente, ho voluto mettere lo yin e lo yang, la luce e l'ombra. La storia di Marco Corvino è quasi commedia, è divertimento, è allegria, è goffaggine, e quello del carezzevole è notte pura, in fondo. E così verità e fantasia che si intrecciano continuamente, come nella vita. E questo era Massimo Lugli, ora in libreria con Il Carezzevole, pubblicato da Newton Compton Editori. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, in MP3 ma anche in podcast. Ci trovate anche su Facebook e naturalmente ci potete scrivere a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.